Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Essere umani e esseri umani. Umanità ha due significati. Descrive tutti gli esseri umani, la specie umana, il nostro essere collettivo. E descrive anche la parte di te che ha la meravigliosa capacità di connettersi con gli altri esseri umani. E secondo me anche con tutto ciò che vive. Alcuni lo chiamano Gaia, altri Pachamama. C'è l'intero e c'è la parte di intero che porti con te. Ieri parlavo al telefono con la mia amica Patrizia. Ciao Patti! E abbiamo condiviso una visione che da sempre, siamo amiche da quando eravamo bambine, ci accomuna. Il senso di separazione è il contrario dell'umanità e porta con sé un sacco di fatica e sofferenza. Il senso di unione è l'antidoto ed è la nostra vera natura. Quando qualcosa mi ferisce, e sì, qui ti faccio uno spoiler, anche le insegnanti di yoga possono sentirsi ferite, stanche o ansiose. Lo so che ci sono una marea di proiezioni su chi fa il mio mestiere, ma fidati, anche la persona che ti appare più ieratica e sorridente o che sprizza energia e capovolte da ogni poro ha una vita a volte complessa e periodi no, proprio come te, come tutti. Adesso che è ben chiaro che non mi sono ritirata a meditare e vivere di bacche in una grotta sull'Himalaya, soffro tantissimo il freddo, fra l'altro, sai anche che a volte qualcosa mi ferisce. Mi sento disconnessa. E sentirci disconnessi dalle altre persone, dal resto di Gaia o Pachamama, dal resto della natura, perché sì, siamo anche noi natura, ne siamo parte, ed è per questo che una passeggiata nel bosco ci ricarica, ci mette in crisi. E quello è il momento di riconnetterci, e non intendo a internet. Come si fa? Io, quando mi sento ferita, chiamo qualcuno che so che mi vuole bene, le persone che sono nella mia famiglia d'anima. Oppure prendo Kali, la cagnolona bionda con la quale condivido vita e tappetino yoga, e usciamo per una lunga passeggiata. Oppure mi metto nella mia pratica yoga. O accendo una candela e mi rilasso guardando la fiamma. O leggo una poesia che mi piace. Il senso di separazione, di disconnessione, si dissolve. Torno a sentirmi di nuovo intera, umana e appartenente all'umanità e a tutto ciò che vive. Perché quando ci riconnettiamo a questa parte di noi, possiamo stare con tutte le nostre emozioni, abbracciare tutte le nostre somiglianze e le nostre differenze e onorare tutti i nostri bisogni e quelli di tutti e i sogni e tutto nello stesso momento. Ci aiuta a costruire ponti tra il presente e il futuro, a muoverci dal buio alla luce. Vuoi ritrovare la direzione giusta? Dal 6 al 26 novembre metterò a disposizione il percorso registrato La bussola interiore, yoga per ritrovare la direzione. Ciascuna lezione dura 40 minuti e il percorso segue questo sentiero. Modulo 1. Il momento in cui davvero integriamo le lezioni del passato e le assorbiamo nella nostra coscienza. Modulo 2. Il senso di sicurezza che nasce dallo scoprire di avere gli strumenti che ci servono per il nostro cammino. Modulo 3. Alleggerirsi da tutto quello che ci trattiene, lasciare andare quello che ci ostacola e non ci appartiene più, per camminare con leggerezza verso il nostro migliore futuro. Modulo 4. Visione chiara della direzione, facendo pulizia delle ombre e dal rumore dei pensieri e delle aspettative. Modulo 5. Allineamento fra intento autentico ed energia. Modulo 6. Il momento in cui il percorso si consolida e diventa parte di noi. Rispondimi a questa mail per avere informazioni. Sei tra le persone che sentono la mancanza delle mie storie di yoga mitologia? Non hai idea di cosa sia yoga mitologia, ma sei curiosa o curioso di provare? Qui trovi gli incontri delle prossime stagioni online, sia in diretta che con le registrazioni, che restano a disposizione per una settimana intera dopo ogni diretta. A novembre, lampi di genio, alla scoperta di nuove idee. A febbraio, in principio, le infinite possibilità di ciò che inizia. Ad aprile, il cuore del cielo, risvegliare l'intuizione. Per chi si iscrive a tutti gli incontri complessivi, e sono 12, c'è un grosso sconto, praticamente 2 delle lezioni su 12 sono in regalo. Chi partecipa a tutte le dirette potrà inoltre richiedere un attestato di frequenza. Scrivimi per info. Onoro il fatto che tu sia qui e che mi legga e che mi ascolti. È la cosa che più amo di queste newsletter, sapere che quel che racconto ti risuona e che ti serve. Per questo, martedì 24 ottobre, martedì prossimo, ti regalo una lezione libera di yoga e mitologia in diretta su Zoom dalle 20 alle 21. La lezione è quasi al completo, perché anche online il numero di partecipanti è limitato, quindi scrivimi subito per entrare nella lista di chi lunedì 23 riceverà il link. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Rupi Kaur dalla raccolta The Sun and the Flowers. Insieme. L'ironia della solitudine è che la percepiamo tutti nello stesso momento. Credo in te e credo nella parte di te che è collegata al noi e credo in noi e credo nella parte del noi che è collegata a te e a me e credo che attraverso te e me e noi possiamo costruire il mondo migliore che tutti desideriamo. Un abbraccio grande, Laura.